Va ora in onda Note, a cura di Giacomo Sapienza. Buongiorno a tutti i radioascoltatori, altro appuntamento col mio programma Note. Ci occupiamo di note di colore, note musicali, note di politica, note varie, note. Ma iniziamo subito con un annuncio. Siamo a 2 giorni dal solstizio d'estate e un importante avvenimento si svolgerà a Cefalù. Un appuntamento che è dato sulla rocca, pensate un po', ci sarà una visita all'edificio megalitico dal tramonto al crepuscolo, un'occasione unica per turisti ma anche cefaludesi, ma soprattutto per appassionati di archeologia ed astronomia, perché vi spiego subito. Alle 17 intanto si partirà da Piazza Garibaldi, quindi alle 18 comincerà l'ascesa e quindi alle 19 una conferenza sul tema il mito, il tempio, il cielo, già questo dice tutto. Ma poi si parlerà di nuove ipotesi sull'edificio megalitico. Quali sono queste nuove ipotesi? Non vi anticipiamo nulla perché vi invito ad ascoltare la relazione della professoressa Valentina Portera, che parlerà del mito, e del professor Antonio Franco, che ricordo che è anche il presidente del consiglio comunale, ma soprattutto uno studioso di storia, forse il massimo studioso di questo sito attualmente, che ci parlerà del tempio, e poi del dottor Davide Gori, che ci parlerà del cielo. Quindi il mito, il tempio e il cielo, sintesi della conferenza, quindi sarà l'unione di questi tre di queste tre relazioni. Quindi poi si starà sulla rocca fino al crepuscolo. Ricordo ancora naturalmente il 21 giugno, partenza da Piazza Garibaldi alle ore 17:30 per la visita all'edificio megalitico dal tramonto al crepuscolo. Detto questo annuncio, intanto un ringraziamento va a Santi Genovese, che è alla regia. Santi oggi sarà anche l'ospite della trasmissione, l'ospite d'onore, perché arriva l'estate, abbiamo detto, e con l'estate, la parola estate si abbina senz'altro alla musica. E chi se non Santi Genovese, il massimo esperto di musica e di talenti, soprattutto di giovani talenti, può darci le ultime news sull'argomento? Ciao Santi! Allora, una buona mattinata a tutti voi amici radioascoltatori di CRM, oggi in doppia veste. Comunque Giacomo si avvicina all'estate, anzi è già arrivata, come tu vedi, da qualche giorno un caldo incredibile, e con l'estate gli appuntamenti musicali e soprattutto le serate in piazza o nei locali. Ebbene, tu sai benissimo che noi in questo periodo cominciamo a preparare il tour dell'Astro d'Argento, quest'anno con la novità Cantagiro 2013. Cantagiro, in quanto ci occuperemo delle selezioni proprio del Cantagiro, per quanto riguarda la nostra organizzazione è responsabile per Palermo, provincia e Madonia, dunque avremo la possibilità di scoprire nuovi talenti, nuovi giovani che poi, se sono bravi e fortunati, arriveranno fino a Fiuggi nelle prime settimane di ottobre. Dunque una bella estate si prospetta per i nostri ragazzi. Cominceremo il giorno 3, comunque ne parliamo poi nel corso del programma con i vari appuntamenti, e soprattutto dobbiamo dire che abbiamo confermato, così come il sindaco di Castelbuono ha detto qualche mese fa, che la finale è a Castelbuono, e abbiamo anche la data: il 12 agosto ci sarà appunto la finalissima dell'Astro d'Argento 2013. Siamo arrivati alla 25esima edizione. Quest'anno il vincitore, visto che il festival è abbinato al Cantagiro, e il vincitore andrà direttamente alle finali di Fiuggi del Cantagiro 2013. Dunque abbiamo modo poi di spiegare meglio come funziona tutto il regolamento della manifestazione. Santi, la volta scorsa non siamo andati in onda per motivi assolutamente tecnici, e quindi mi corre l'obbligo salutare i 3 nuovi sindaci che nel frattempo sono stati eletti in 3 comuni da dove ci ascoltano in parecchi, D'altronde avviene così un po' dappertutto, da quasi tutta la Sicilia, siamo nelle radio più ascoltate, questo lo possiamo dire a voce alta. Ma volevo salutare il sindaco Giacomo Ilardo a Gratteri, Massimo Battaglia a Campofelice e Bartolo Vienna, sindaco riconfermato a Geraci Sicolo. Gli auguri nostri di un buon lavoro e fin da adesso parte l'invito per averli ospiti nella nostra trasmissione, ma penso saranno ospiti nelle trasmissioni settimanali, domenicali della nostra redazione News di CRM e Happy Radio. Fra l'altro ti devo dire, Giacomo, che chissà che magari non faremo qualche puntatina in uno di questi paesi, perché noi abbiamo presentato anche i progetti per quanto riguarda il tour dell'Asta d'Argento del Cantagiro proprio in alcuni di questi comuni che tu hai menzionato, e di conseguenza magari così con l'occasione avremo questi nuovi sindaci sul palco, ai quali augureremo un buon lavoro per la loro sindacatura. 4 anni, se non vado errato, io di politica non sono molto afferrato, comunque diciamo per un buon lavoro, visto il momento non tanto bello in cui attraversiamo. I comuni sono in difficoltà come tutto il resto poi dell'Italia, ecco, di conseguenza auguriamo loro un buon lavoro e che questo loro incarico porti un po' di prosperità in più e di lavoro in più, soprattutto perché ce n'è veramente bisogno. Abbiamo parlato poco fa di Rocca Santi, sai quanti visitatori sono saliti sulla Rocca nel mese di maggio? No, mi cogli impreparato, non so assolutamente. E allora, questo è un dato inedito che abbiamo solo noi in esclusiva, grazie anche a Giuseppe Calabrò, l'unico volontario che apre e chiude il cancello del Parco Archeologico della Rocca. Allora, malgrado la crisi del turismo, a maggio c'è stato il record di sempre di visitatori sulla Rocca, sono saliti in ben 8.408, però ahimè solo 78 il residente, ma forse già faceva caldo. No, ma il problema del residente è che non si è mai profeti in propria patria, pensa che noi non conosciamo la Sicilia forse come la conoscono i turisti stranieri che vengono qui in Sicilia, magari conosciamo qualche parte del nord in più, ma la nostra Sicilia, la nostra bella Sicilia la conosciamo un po' pochino, devo dire. Noi siamo così, cioè ce l'abbiamo il mare a portata di mano, magari ci andiamo pochissimo, abbiamo la Rocca e non la visitiamo, però i turisti sono quelli che poi alla fine vengono proprio qui per visitare queste nostre bellezze. E allora, per chi non ha visitato la Rocca almeno quest'anno, ricordiamo ancora l'appuntamento del giorno 21, oltretutto la possibilità di vedere il tramonto dalla Rocca, ma ci sarà anche una conferenza interessantissima, quindi il 21 17:30 partenza da Piazza Garibaldi per la Rocca. Comunque a maggio il giorno con più visitatori è stato il 1° maggio. Il 1° maggio, la gita fuori porta, la prima gita della stagione possiamo definirla, perché il tempo fino a poco tempo fa non è stato clemente, ora è arrivato il caldo, come dici tu, torrido tutto in una volta, e allora le persone hanno cominciato a fare questi weekend. C'era uno che cantava "cerco l'estate tutto l'anno" e all'improvviso eccola qua. Vabbè, allora, visto che parliamo di musica, caro, sì, facciamo musicale. Un brano musicale di qualche anno fa, e così poi continuiamo la nostra trasmissione. Now Caro Giacomino, queste canzoni ci riportano indietro di tanti anni, ma noi li ascoltiamo ben volentieri, e soprattutto secondo i me mitici Abba sì, hanno fatto anche un musical interessantissimo. Sì, e infatti parlando di musica, bravo, si parla anche di canzoni di qualche anno fa che poi hanno fatto la storia della musica. Comunque io ti lascio per un attimo ancora alle tue belle note, alle tue belle notizie. Sì, io ancora cominceremo a parlare anche di quello che sarà questo festival quest'anno. Sì, notizie non belle, ma forse nemmeno brutte, quelle che sto per leggervi, perché devo leggere, perché si tratta di dati. Parlo di dati di turismo, abbiamo parlato di turismo, ma non abbiamo dato dei dati, o meglio, non abbiamo dato i numeri, tra virgolette. Allora, sono ancora purtroppo negativi i dati del turismo cefaludese nel mese di maggio, che fa registrare un calo di presenze del 13,48%, e già provenivamo da un calo molto sensibile delle presenze. Allora, voglio chiedere innanzitutto un termine. Molti mi chiedono, visto che ormai da circa 10 anni seguo ogni mese le statistiche del turismo cefaludese, e per questo qualcuno mi dice: ma perché non ti invitano mai a relazionare in conferenze, visto che sei l'unico che ha dato da 10 anni a questa parte i numeri. Occhio a dare i numeri. I numeri sul turismo. Beh, io rispondo senz'altro, perché li pubblico mensilmente sul quotidiano Il Giornale di Sicilia, ma dove scrivo abitualmente, ma anche su Cefalù News e su CRM e Pir Radio, come sto facendo in questo momento. Però un calo di turisti generale, però Sante ci incoraggia un fatto: pare che gli stranieri siano aumentati dell'8,21%, e questo è un dato davvero interessante. Infatti, andando in spiaggia o passeggiando sul corso, vediamo tanti stranieri. Vorrei farti una domanda: quali sono il numero maggiore degli stranieri, per vedere così chi sta meglio in Europa rispetto a noi? Ecco. Poteva mancarci questo dato? Assolutamente no. Allora, i più numerosi sono stati i francesi, che hanno fatto registrare 30.836 presenze. Ma attenzione, è un dato, diciamo, non positivo tutto sommato. Pensavo i tedeschi, veramente. No, ma i tedeschi li stanno quasi superando, perché sono state 28.701. Parliamo di presenze. Come dicevo poco fa, cosa sono queste presenze? Che differenza c'è tra arrivi e presenze? Semplicissimo, perché le presenze sono il numero di turisti moltiplicato i giorni della loro presenza, e questo è il dato che interessa di più all'economia, perché possono arrivare 10 turisti e fermarsi 10 giorni e quindi sono 100 presenze, possono arrivare 90 turisti e fermarsi un giorno e Sono 90 presenze. Beh, quindi quello che conta è per quanto tempo occupano le nostre stanze di albergo, le nostre B&B, dei nostri camping. I dati naturalmente sono forniti dal Dipartimento Regionale Turismo, Unità Operativa 1. Allora, nel dettaglio, secondo i dati forniti dall'ufficio ex azienda turismo, sono arrivati in città 14.884 turisti. Stiamo parlando nell'ultimo periodo, naturalmente. Noi sappiamo che poi il grosso del turismo a Cefalù è luglio, agosto, settembre, quindi dove ci sarà sicuramente il pienone. Questi si sono fermati mediamente 3,97 giorni, quindi quasi 4 giorni, e infatti hanno fatto registrare 59.045 presenze. Malgrado questi dati, resta negativo il bilancio dei primi 5 mesi del 2013. Da gennaio a maggio, infatti, sono arrivati 27.256 turisti, ovvero sia il meno 15,84%, per un totale di 101.988 presenze, meno 22,91%. La durata media da gennaio a fine maggio è stata di 3,74 giorni. Il dato che abbiamo dato prima era riferito naturalmente al mese di maggio, perché parlavamo di maggio poco fa. Questi ora sono i dati degli ultimi 5 mesi. Sempre i numeri dicono che sempre nello stesso periodo sono arrivati 5.129 turisti in meno rispetto ai primi 5 mesi del 2012, ovvero 30.307 presenze in meno. Quindi 30.307 presenze, capite, è un numero abbastanza consistente. Ma perché questi dati negativi? Santi, come dicevi tu poco fa, c'è crisi in Italia, sono gli italiani che mancano purtroppo. Sì, infatti leggevo da qualche parte che quest'anno forse usciranno e partiranno per le ferie meno del 50% degli italiani, insomma sceglieranno delle mete molto vicini a casa loro, anche perché i costi di viaggi, di aerei sono abbastanza elevati. E soprattutto moltissimi non possono permettersi più la doppia vacanza, quella del Ponte Pasquale e quella estiva, quindi li aspetteremo senz'altro durante le vacanze estive, quindi nulla di preoccupante, almeno per quel che riguarda i flussi turistici, o quantomeno speriamo sia così, e li vedremo, magari che non è venuto a Pasqua, magari ritornerà a Ferragosto. Comunque in estate, in agosto, poi ci sarà il turismo degli emigranti che rientrano per le ferie, per stare un po' insieme ai loro cari che non vedono poi da un anno, e di conseguenza diciamo che si sentirà un po' meno questo calo, però effettivamente gli italiani, quelli che si spostano per venire in Sicilia a visitare questa bellissima terra, quest'anno saranno un po' meno. E comunque noi adesso, caro Giacomo, abbiamo il dovere di mandare la pubblicità, poi riprendiamo con questo argomento, perché è molto importante sapere come si prospetta. Passiamo la linea alla regia. Alla regia, ok, pubblicità, e ritorniamo su un attimo nuovamente in diretta su CRM Happy Radio. E allora, caro Giacomo, questa musica ci riporta indietro nel tempo, come abbiamo detto, per gli ABBA, anche per gli Europe. Poi, fra l'altro, questa è una canzone che da qualche anno fa da colonna sonora alla nostra manifestazione, all'Astro d'Argento, alla sigla di apertura. Ricordiamo che l'Astro d'Argento ha un sito internet. Sì, www.astrodargento.it, un sito che è stato messo online da qualche giorno, visto che abbiamo, ecco così, rifatto un po' tutte cose e abbiamo rimesso online questo sito dove la gente ci può andare a vedere. Tra l'altro ci sono i nostri festival partner, tu lo sai benissimo, oltre a Cantagiro noi abbiamo chiuso anche un accordo ufficiale, lo faremo a quanto prima con Vocine Nuove di Castrocaro per quanto riguarda la categoria dei bimbi, mentre per il Cantagiro già la cosa è ufficiale, dunque di conseguenza già lavoriamo per il Cantagiro, ripeto, Palermo, provincia e Madonie, ci occupiamo proprio noi, la nostra organizzazione. Vocine Nuove già abbiamo chiuso i primi contatti l'anno scorso e continueremo, e forse in finale avremo in giuria Katia Coficoni, che è la organizzatrice del Vocine Nuove di Castrocaro. Aspettiamo solo conferma, poi dopodiché potremo dare ufficialmente la sua presenza. Oltretutto nella finale della Sud Argento ci sarà anche Enzo De Carlo, Virginia Barrett e molto probabilmente Roberto Casalino, che è il direttore artistico insieme a Dario Salvatori. Roberto Casalino, per chi non lo conosce, è l'autore della canzone che ha vinto Sanremo quest'anno, quella di Mengoni, cioè L'Essenziale. E poi Roberto Casalino, giovanissimo autore, scrive anche per Emma, scrive anche per altri grossi artisti emergenti della musica italiana. Dunque avremo un grosso personaggio il 12 agosto in Piazza Castello, proprio per la finale della Castelbuono. A Castelbuono, sì, esatto. Abbiamo iniziato questo discorso, caro Giacomo, con Mario Cicilo, lo stiamo portando avanti con Antonio Tumminello, ed è veramente un discorso che sta andando avanti alla grande, devo dire. Beh, sicuramente quando si inizia un progetto dovrebbe prescindere da chi si sussegue nelle varie amministrazioni, per cui diciamo se un progetto è valido deve essere fatto proprio da... Ma infatti il sindaco attuale Antonio Tumminello l'anno scorso ha visto la manifestazione, gli è piaciuta tantissimo, tant'è vero che già a novembre ci aveva confermato la finale a Castelbuono, perché appunto ha visto questi giovani, veramente dei giovani di un certo valore. Non lo dico perché è il festival che organizzo io, ma vengono persone da tutta la Sicilia, ragazzi che hanno delle esperienze, che provengono da scuole di canto, ragazzi che hanno fatto già delle esperienze anche a livello regionale e nazionale, e dunque sono dei veri e propri professionisti. Fra l'altro io vorrei invitare le persone, tutti coloro che vogliono vederci, noi giorno 3 di luglio iniziamo il nostro tour, lo iniziamo a Cefalù, caro Giacomo, però siamo in un locale, noi è stato veramente una cosa che ho voluto fortemente, ripartire da Cefalù, anche se non è uno spettacolo di piazza, siamo alle Vele, il locale Le Vele, che è l'ex Delirio sul lungomare di Cefalù, e inizieremo appunto il 3 con questa prima tappa che riguarderà appunto l'Astro d'Argento 2013, ma riguarderà anche le selezioni e audizioni per il Cantagiro 2013. E invitiamo tutte le persone a partire dalle 21:30-22 circa, se vogliono seguire questa prima tappa, l'ingresso è libero, presso appunto Le Vele, ex Delirio sul lungomare di Cefalù, mercoledì 3 luglio partiamo con la nostra grande avventura e vediamo dove ci porta. E sarà probabilmente uno dei grandi eventi dell'estate cefaludese. A proposito, io volevo proprio chiederti questo, visto che tu sei informato sempre di tutto, cosa ci aspetta quest'estate per quanto riguarda gli intrattenimenti, perché noi parliamo di turismo, parliamo di gente che viene a Cefalù, ma poi la sera, quando questa gente dopo cena esce, cosa fa? E allora, a proposito, lasciamo per il momento la pagina spettacolo. A proposito di turisti che escono, dobbiamo fare un plauso al nostro sindaco Rossano Lapuntina, che ha raggiunto un accordo con la Sommatinese ed ha aumentato le corse con i bus urbani da Cefalù per Mazzaforno. Quindi ci saranno corse da Cefalù per Mazzaforno alle 9:15, alle 10:30, alle 12:00, 13:30, 14:15, ore 15, e poi 18:15, 20:30, 21:40. Viceversa da Mazzaforno per Cefalù alle 6:05, 6:35, 7:35, 9:30, 11:10, 12:25, 14:05, 15:15, 18:30, 20:40. Quindi più possibilità per i turisti di scendere da Mazzaforno o dalle zone limitrofe fino alla città di Cefalù. Scusami, per quanto riguarda il notturno c'è qualcosa che... Sì, ci sarà un bus che permetterà di ritornare nella zona di Mazzaforno a mezzanotte precisa. Ecco, vabbè, dunque... Quindi per chi può seguire uno spettacolo a Cefalù o farsi una passeggiata serale avrà la possibilità di prendere l'autobus, magari, anche perché molti turisti non vengono con la macchina. Sicuramente, sicuramente. Questa è una bellissima iniziativa, anche se io avrei fatto l'una invece di mezzanotte, perché magari il turista scende sempre dopo le 21:30. Non vorrei, per quell'abitudine, e questo non c'entra niente con le corse dei bus, per quell'abitudine cefaludese che a mezzanotte bisogna concludere ogni manifestazione. Penso che per l'estate ci sarà sicuramente una deroga all'orario, magari le manifestazioni o i concerti all'aperto potranno finire sicuramente più tardino. Beh, questo è un problema, insomma, della nostra città di Cefalù, che a mezzanotte bisogna o spegnere o abbassare i volumi, quando proprio il turista magari che viene a Cefalù alle 22:30 a mezzanotte è appena un'ora, un'ora e mezza che è qui in giro nella nostra cittadina, e invece deve poi rientrare. Ma comunque penso comunque il problema è innanzitutto sapere cosa ci sarà quest'estate. Questi programmi si sapranno quanto prima, penso, poi sicuramente. Non so se tu sei più No, al momento so soltanto di progetti. Naturalmente i punti fermi di Cefalù restano la settimana di festa in occasione dei festeggiamenti del Santissimo Salvatore. In questi sei giorni sicuramente ci sarà qualche evento musicale. Poi c'è lo Sherbert Festival a settembre, dal 4 settembre in poi, credo sia quest'anno. Quindi i punti fermi questo, e poi da quello che si diceva, da quello che è stato annunciato, ci saranno una serie di manifestazioni che coinvolgeranno gli artisti locali, quindi probabilmente sarà ripetuto anche in più posti. Si diceva al teatro comunale, lo diceva anche il nostro sindaco, ci saranno delle serate di piano bar un po' sul lungomare, piazza Garibaldi. Beh, io ti suggerirei per la prossima trasmissione magari di invitare il sindaco per vedere un po' quelli che sono i progetti per quest'estate, che ormai è alle porte, perché diciamo che oggi siamo già quasi a fine giugno. Il nostro sindaco ha aperto questa trasmissione, magari lo invitiamo alla trasmissione, diciamo, che conclude il ciclo invernale, sì, e primaverile di questa trasmissione, per poi dare spazio, volevo ricordare proprio questo: a luglio daremo spazio alla trasmissione balneare di CRM, che probabilmente si trasferirà sulla spiaggia, nelle varie spiagge. Sì. E allora sarebbe bello, appunto, che la prossima, no, questo è il mio suggerimento, anche poi... perché l'ultimo mercoledì di giugno, quando dovrebbe concludersi questo primo ciclo di note condotto da me, Giacomo Sapienza, dagli studi di CRM e Pirredio, conto di avere ospite il nostro sindaco, che ci parlerà magari portando qualche suo delegato o qualche consulente artistico per illustrarci il programma estivo, sicuramente che si annuncia altrettanto ricco è sicuramente ancora più interessante rispetto allo scorso anno. Ricordiamolo, il sindaco si è insediato da appena un mese lo scorso anno, quindi ma ha saputo regalarci appuntamenti molto interessanti anche lo scorso anno. Beh, noi abbiamo avuto la prova quest'anno con questo Festival del Mare, con i borghi, chiaramente la prima esperienza. Sicuramente l'anno prossimo sarà ancora migliore, l'anno dopo sarà ancora migliore, insomma si migliora anno per anno. Allora vogliamo chiarire una volta per tutte il fatto della regata. Santi, le barche sono arrivate fuori tempo, ma massimo. Vabbè, ma questo non ci si può dare colpa a nessuno. Soprattutto dobbiamo fare un plauso ai regatanti che sono rimasti in barca dalla mattina fino a quasi mezzanotte. Vuol dire che la prossima volta si porteranno i remi e arriveranno sicuramente. Passiamo i complimenti agli organizzatori e a chi era sulle barche in attesa di un pochettino di vento. Sappiamo che questo è successo, per esempio, Santi, durante la Coppa America in Nuova Zelanda, in pieno oceano, 5 giorni senza vento, fermi, con tutte le TV del mondo e gli sponsor che attendevano la trasmissione, 5 giorni di fila senza vento. Questi sono gli imprevisti che non si possono prevedere certe situazioni. Sicuramente. E allora, noi praticamente così stiamo parlando un po' oggi, ci sono due conduttori, alla fine non è che stia facendo intervistato, ma comunque mi piace parlare di queste cose, perché tu sai che benissimo che occupandomi anche di spettacoli mi piace moltissimo parlare di organizzazioni e di quello che si farà in questa cittadina. Tu lo sai benissimo, con il mio festival da parecchi anni non faccio tappa a Cefalù, però ti ripeto, quest'anno noi partiremo proprio il 3 luglio. Consentimi questa parentesi, vorrei appunto spiegare questa manifestazione, poi ti lascio il microfono perché tu sei il padrone di casa. Sì, ecco, torneremo a parlare di spiagge, perché c'è un'altra notizia buona per le spiagge di Cefalù. Perfetto, niente, noi iniziamo il 3 luglio da Cefalù, dalle Vele, ex Delirio, dove praticamente si esibiranno i ragazzi, alcuni dei semifinalisti dell'Arso d'Argento, perché sono gli iscritti sono più di 40. In questa occasione ci saranno 18 ragazzi che partecipano al Festival Astro d'Argento e che gareggiano per vincere il festival e per andare direttamente alle finali di Fiuggi del Cantagiro, ma ci saranno anche altri ragazzi che faranno proprio le audizioni, le selezioni per aggiudicarsi un posto per la finale provinciale, perché come ben saprai, noi oltre alla finale dell'Ascio d'Argento faremo dopo, fine agosto, penso primi di settembre, proprio la finale del provinciale del Cantagiro. Da questa finale ci saranno in giuria gli organizzatori del Cantagiro, Enzo De Carlo, Virginia Barrett, come abbiamo detto molto probabilmente anche Roberto Casalino, e verranno scelti da questi 20 ragazzi praticamente coloro che faranno parte delle finali regionali, che ancora il Cantagiro non ha definito come piazza dove saranno svolte queste finali, e a queste finali regionali appunto parteciperanno tutti quei ragazzi selezionati nelle varie province, nelle 9 province siciliane. E da qui poi ci saranno coloro che saranno appunto selezionati per le finali nazionali a Fiuggi. Devo aggiungere un'altra cosa importante, che chi partecipa all'Arso d'Argento, oltre a gareggiare per vincere il primo posto e andare direttamente alle finali del Cantagiro 2013, può essere anche selezionato per la finale del Cantagiro 2013. Dunque, chi partecipa all'Astro d'Argento ha due chance per il Cantagiro, chi invece fa semplicemente le selezioni e le audizioni per il Cantagiro ha una chance di inserirsi nei 20 finalisti del Cantagiro 2013. Penso sia stata un po' chiara come regolamento di questa manifestazione, e noi speriamo che vengano parecchi cefaludesi a vedere questa serata il 3 di luglio, mercoledì 3 luglio, alle Vele, ex Delirio sul lungomare di Cefalù. Ripeto, l'ingresso è libero e di conseguenza potete venire a trovarci come e quando volete. Bene, io adesso, caro Giacomo, perché io mi devo mettere adesso nei panni della regia, c'è la pubblicità, noi poi ci sentiamo fra qualche attimo. Ritorniamo allora a dare la linea alla regia. Benissimo, allora la pubblicità, poi ci ritroviamo qui in studio per chiudere questo appuntamento di oggi. Diciamo che forse è il penultimo, vero? Non ho il calendario davanti, comunque chiuderemo l'ultimo mercoledì di giugno. Benissimo, allora pubblicità e poi ancora una volta con note. Ritorniamo in studio. Volevo ricordarvi due appuntamenti molto importanti per la città di Cefalù. Il primo riguarda un appuntamento televisivo su Rai 1. Domenica 30 alle 10.55 di mattina Rai 1 trasmetterà in diretta la Santa Messa dalla Basilica Cattedrale di Cefalù, e non poteva esserci luogo migliore per una messa in diretta su Rai 1, perché sarà dalla Basilica che racchiude, che conserva, custodisce l'icona del Pantocratore, simbolo, icona dell'anno della fede indetto da Papa Benedetto XVI è portato avanti dal nostro grande Papa Francesco. Quindi chi è all'estero, che ci sta ascoltando in streaming da fuori Italia, su satellite o in streaming Rai, potrà seguire la messa dalla Basilica Cattedrale di Cefalù, presieduta dal nostro Vescovo Sua Eccellenza Vincenzo Manzella. I canti sono curati dal parroco Don Cosimo Leone ed eseguiti dalla corale della Cattedrale di Cefalù. Altro appuntamento importante, note di colore questa volta, parliamo del concorso Cefalù Fiorita, indetto dal comune di Cefalù, che si ripete anche quest'anno. Lo scorso anno ero in giuria, quindi posso garantire che è un concorso assolutamente straordinario, che permette di dare alla città un tocco di colore, di freschezza, con gli addobbi floreali curati da associazione e private. Mi raccomando, partecipate numerosissimi a questo concorso. E poi ancora una bellissima notizia, ho parlato col sindaco, che era davvero soddisfatto, ha manifestato la sua grande soddisfazione quando ha appreso che Cefalù è tra le 7 spiagge siciliane ideali per chi ha figli e cerca sabbia fine, acqua pulita e strutture ricettive vicine. Sono 7 le spiagge scelte, sono Cefalù in provincia di Palermo, lo sappiamo tutti, Ispica, Santa Maria del Focallo a Ragusa, Marina di Lipari a Messina, Marina di Ragusa a Ragusa, Porto Palo di Menfera a Agrigento, San Vitolo Capo a Trapani e Tre Fontane a Trapani. Quindi nella provincia di Palermo è stata scelta Cefalù. Ma chi lo ha scelto, vi chiederete voi? Chi ha individuato Cefalù come la spiaggia con sabbia fine, acqua pulita e strutture ricettive vicine? Ben 115, ripeto, 115 pediatri, e per conto del periodico Ok Salute. Quindi se 115 pediatri scelgono Cefalù per i bambini, che sappiamo sono gli esseri più delicati sotto tutti i punti di vista, e allora Cefalù è senz'altro la spiaggia per eccellenza che voi dovete assolutamente visitare e scegliere per le vostre vacanze, e poi magari fate anche un giro per tutte le altre spiagge della Sicilia altrettanto belle, come tutti gli altri posti della Sicilia e tutta la Sicilia. Ma a Cefalù fate almeno una tappa, un weekend a Cefalù, è assolutamente straordinario, lo dicono ben 115 pediatri italiani per il periodico Ok Salute. E nel frattempo guardavo il nostro orologio, noi siamo soliti chiudere alle 12.50, oggi abbiamo fatto un po' di più. Ci siamo dilungati un pochettino di più, Giacomo, anche perché abbiamo affrontato argomenti importanti come quelli del turismo, dell'intrattenimento. Sì, che abbiamo dato dei dati assolutamente inediti, dati, ripeto, in chiaro scuro, perché da un lato c'è un calo vistoso nel totale generale, ma a maggio abbiamo visto aumentare dell'8% e un pochino anche di più i turisti stranieri. Questo ci incoraggia tantissimo. Sono arrivati turisti da ben 60 stati diversi. Questo secondo le statistiche dell'ex azienda turismo, Dipartimento Regionale Turismo. Quindi questo significa che Cefalù ancora nel mondo ha un suo fascino, e noi dobbiamo custodire questo fascino, anzi promuoverlo sempre di più. Detto questo, non ci rimane tante che non salutare. Ci rimane che salutare, che io ringrazio Giacomo per avermi dato la possibilità di parlare di questo inizio del tour dell'Ascio d'Argento Cantagiro 2013. Noi sicuramente ci risentiremo subito dopo l'estate con altri programmi, altri appuntamenti. Per quanto ci riguarda personalmente, sia per lo sport sia per Note, insomma, riprenderemo il programma sportivo, penso fine agosto, perché c'è insomma la preparazione. Cioè, calciomercato. C'è il calciomercato, beh, insomma, con tutti questi soldi che ci sono da spendere, non so che calciomercato a questi livelli a si possa fare. Lazio a buon mercato. Ecco, e niente, siamo stati insieme un'oretta, caro Giacomo, però abbiamo dato anche delle notizie molto importanti sul turismo e speriamo che prossimamente così possiamo anche dare, visto che ci sarà un'altra trasmissione e che molto probabilmente, se Giacomo riesce, porterà qui il sindaco per parlare poi di quelli che saranno i programmi immediati per quest'estate. Cercheremo di contattarlo per averlo un'oretta l'ultimo mercoledì di questo, di mese. Questo mese, e naturalmente non gli chiederemo di politica, di bilancio e cose varie, ma soltanto di estate, turismo e una promozione della nostra città di io Stato. Mi è venuta in mente una cosa, io farei un in bocca al lupo oggi a tutti i ragazzi perché sono iniziati gli esami di Stato, insomma un in bocca al lupo a tutti. Dimenticato, grazie. No, figurati, a tutti i ragazzi che oggi si apprestano a iniziare questi esami di maturità, dare un in bocca al lupo per gli esami, ma dare un in bocca al lupo anche per poi quello che sarà subito dopo la maturità, il posto di lavoro. Questo è molto importante secondo me. E questo per oggi è tutto. Grazie, una buona giornata da Santi Genovese e Giacomo Sapienza. Grazie a tutti, alle prossime trasmissioni, ciao. Avete ascoltato Note, a cura di Giacomo Sapienza.